Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Riminesi, viareggini, riccionesi e voi tutti, popolo dell'Adriatico, elencarvi tutti per città e cittadine sarebbe impossibile. State tutti in ascolto perché dobbiamo mobilitarvi per un'impresa piuttosto importante, ne parleremo più avanti nella trasmissione. Adesso ascoltiamo i titoli di questa puntata. Una ricerca sulle aree cerebrali aggredite da patologie rivela quanto il cervello sia una macchina complessa. È il senso di spiritualità al centro di questa scoperta. Un progetto di ricerca sulle valanghe crea una situazione controversa e con molte polemiche. 29 suini usati per testare la sopravvivenza sotto la neve. Come ogni anno, parte da Milano e girerà l'Italia la rassegna cinematografica Vedere la scienza. Negli abissi marini al largo di Capopassero, a oltre 3.000 metri di profondità, è stata appena eretta una torre di 600 metri. È Nemo 2 ed è in cerca di neutrini. SOS da Fondazione Cetacea. Le tartarughe marine che passano nell'Adriatico sarebbero in serio pericolo se il lavoro di questo centro non potesse continuare. Sto per parlarvi di un argomento abbastanza difficile che ha bisogno di alcune premesse e quindi le faccio subito insieme al mio ospite Cosimo Urgesi. Buonasera Urgesi. Buonasera a lei. Ricercatore in psicobiologia dell'Università di Udine. Allora Urgesi, è uscita dai vostri laboratori, dal suo gruppo, una ricerca abbastanza inconsueta, interessante, nella quale si parla di spiritualità. Allora, di solito noi quando parliamo di queste cose che riguardano psicologia, la prima parte dell'intervista, insomma, la facciamo sempre, come dire, descrivendo bene il teatro sperimentale e gli ingredienti, e poi ci ragioniamo sopra. Allora, io le chiedo, nel vostro gergale da addetti ai lavori, il termine spiritualità ha un senso che invece dall'esterno può rimandare a un'infinità di cose diverse. Vogliamo provare a capire. Voi avete in qualche modo testato inizialmente, nella parte iniziale del vostro esperimento, una certa propensione nei soggetti umani ad avere, come dire, un afflato spirituale. Però proviamo a chiarirlo meglio. Sì, abbiamo utilizzato un questionario di personalità che viene correntemente usato in ambito psichiatrico e che ha diverse sottoscale, tra le quali una identificata appunto come autotrascendenza, che misura diversi livelli di rappresentazione del sé in contesti che appunto trascendono una rappresentazione contingente in termini spazio-temporali. Questa scala contiene tre sottoscale a sua volta, e per intenderci una è valuta la tendenza all'oblio di sé, per cui valuta delle dimensioni di perdersi nel tempo e nello spazio, perdere il senso del tempo e dello spazio. L'altra valuta l'identificazione transpersonale, sentire un collegamento spirituale molto forte con altre persone che è difficile da spiegare a parole, e l'altra che invece misura la tendenza ad essere incuriositi, a credere, ad interessarsi di fenomeni che non possono essere spiegati scientificamente, tra cui esperienze extrasensoriali oppure miracoli. Va bene, così mi sembra che sia abbastanza chiarito. In generale è un po' una propensione a sganciarsi da una certa quotidianità e ad essere interessati a tante cose che trascendono appunto questa quotidianità, questa vita consueta e routinaria. È un po' questo, no? Diciamo soprattutto questo, nei suoi elementi di contingenza spazio-temporale, sentirsi qui ed ora, oppure trascendere queste rappresentazioni contingenti. E naturalmente dentro questo ci può stare anche, per esempio, un certo afflato religioso, insomma, ci può anche rientrare. Più che religioso, appunto, perché religioso fa riferimento più a componenti di tipo istituzionale, di pratiche religiose, di credenze religiose. In questo ambito è un qualcosa di molto più generale, che più riguarda anche appunto un afflato spirituale, che può essere anche indipendente dalla religiosità delle persone. Ecco, però adesso passiamo alla seconda fase, perché al secondo aspetto, perché voi avete testato queste cose in soggetti con un particolare problema, cioè delle persone affette da tumore al cervello. Esatto, quello che abbiamo cercato di fare è capire se delle lesioni al cervello potevano modificare queste tendenze alla spiritualità nell'accessione appunto. Come abbiamo definito prima. Certo, e allora voi avete fatto un test prima e dopo un intervento operatorio. Esatto, dopo un intervento di craniotomia ed asportazione di un tumore cerebrale, quindi un intervento che era finalizzato al trattamento della patologia tumorale, e abbiamo somministrato il questionario prima e dopo l'intervento di craniotomia effettuato in diverse aree del cervello, sia in aree anteriori, quindi prefrontali, frontali, sia in aree posteriori, in aree temporoparietali, voi dell'emisfero sinistro, voi dell'emisfero destro. Su pazienti nei quali appunto l'intervento chirurgico aveva avuto come conclusione l'asportazione di una parte del cervello, insomma, del cervello, appunto dal tumore, dalla patologia, sì. Quindi l'intento era quello di rimuovere la patologia tumorale, certo, non è espansiva. Avete fatto un confronto? Sì, abbiamo osservato che dopo l'intervento di craniotomia c'erano delle modificazioni del tratto di autotrascendenza, vale a dire i pazienti presentavano un aumento di autotrascendenza dopo che alcune aree specifiche del cervello erano state asportate, e questo si verificava non in tutti i pazienti ma solo in quelli che presentavano una lesione che avevano subito un intervento alle aree posteriori del cervello, alle aree temporoparietali. Quindi non era un effetto legato in generale al fatto di essere stati sottoposti all'intervento di rimozione del tumore, eccetera, ma era un effetto specifico per quale parte del cervello era interessata dall'intervento. Quindi il risultato, la conclusione a cui state arrivando è che la rimozione di quella parte ha liberato una certa propensione ad un aumento di spiritualità, insomma. Esatto, nel senso sapevamo già che dagli studi precedenti che le aree temporoparietali sia dell'emisfero sinistro che dell'emisfero destro sono coinvolte nella rappresentazione del corpo e dello spazio, quindi nella capacità di percepire il nostro corpo e all'interno dello spazio esterno, quindi di valutare, diciamo, quella contingenza spazio-temporale di cui parlavamo prima. La lesione di queste aree rendeva molto più facile la trascendenza da queste contingenze spazio-temporali. E quindi questo è stato il risultato della vostra ricerca. Mi pare che da una ricerca come questa venga fuori perfettamente questa immagine corretta che abbiamo del cervello come una macchina di una complessità ed una duttilità impressionanti. Perché praticamente che cosa scopriamo? Scopriamo che all'interno, insomma, di questo marchingegno sofisticatissimo abbiamo delle zone che possono come dire essere antagoniste, adesso il tema è forse eccessivo, la definizione è eccessiva, ma antagoniste rispetto ad altre, cioè frenano il comportamento di altre. Sicuramente è quello di cui ci stiamo rendendo conto sempre più quando le tecniche di visualizzazione dell'attività del cervello diventano sempre più complesse. È difficile immaginare il cervello come una serie di compartimenti stagno in cui ogni area svolge un determinato compito, ma le diverse aree cerebrali sono fortemente interconnesse tra di loro, quindi le funzioni cognitive, tra cui anche la tendenza alla spiritualità, emergono come una come un'interconnessione, un'interazione tra questi sistemi complessi, sì. Per cui se un nodo di questa rete, delle varie reti coinvolte nelle funzioni cognitive, va ad essere lesionato, scompensa il funzionamento dell'intera rete in una direzione piuttosto che in un'altra. Ogni volta che io vi ascolto arrivo alla conclusione che appunto questa macchina non ha proprio nessun, non è simile a nient'altro, magari potrebbe esserci qualcos'altro che è in piccolo e così, ma il computer è un oggetto tremendamente lontano, insomma, è veramente una cosa unica. Assolutamente sì, il computer è stato uno strumento per riuscire a modellizzare il funzionamento mentale, ma adesso probabilmente si sta andando nella direzione opposta di studiare come funziona il cervello per riuscire a creare delle macchine, dei robot che funzionino il più simile possibile all'uomo e quindi nella maniera più efficiente possibile. Sì, ma quindi che saranno oggetti molto diversi da quelli che abbiamo. Assolutamente, questo è riflesso anche nel nostro livello di conoscenza del funzionamento cerebrale, che comunque è ancora abbastanza primitivo, c'è tanto da scoprire, tanto da ricercare. Cosimo Murgesi, grazie e buon lavoro nella sua ricerca. Grazie a lei, buona serata. Georgia del Sud, South Georgia in inglese, grande isola sperduta nel sud dell'Oceano Atlantico. Non siamo proprio al polo, ma non lontani. Eppure questo luogo è meta periodica e spesso residenza stabile di un'impressionante varietà di uccelli, circa 30 milioni di esemplari distribuiti in più di 80 specie. La Georgia del Sud era una base nel XIX secolo di molte baleniere che qui si fermavano per recuperare acqua e anche viveri, perché in quei tempi sull'isola c'erano appunto dei magazzini di rifornimento. Oggi, come si è detto, l'isola è deserta per quanto riguarda i balenieri, però, ma come noto, le navi di un tempo erano abitate abbondantemente da topi che nei porti di sosta scendevano anche loro a terra. In breve, in un secolo e passa, questi animali, i ratti, stanno per diventare i veri padroni dell'isola. Le cifre, svariati milioni di esemplari che adorano cibarsi delle uova colte nei nidi degli uccelli, e ben sappiamo quanto siano abili in questo genere di attività i topastri. Il risultato è che la popolazione di volatili sta decrescendo a ritmi vertiginosi. C'è una fondazione che si occupa della conservazione del patrimonio naturale dell'isola e la fondazione ha deciso, dopo varie operazioni di contenimento, di lanciare una offensiva totale. Tony Martin, presidente della fondazione, ha dichiarato, state bene attenti, ha dichiarato che l'operazione di eliminazione dei ratti sarà considerato un insuccesso qualora sull'isola ne rimanessero due. La Georgia del Sud è lunga 120 chilometri, teniamolo presente. Come avverrà questa battaglia all'ultimo topo? Si utilizzeranno delle pillole di alimenti, dei bocconcini di cereali con all'interno un componente tossico molto potente, un anticoagulante. I gestori della campagna assicurano che questo cibo non interessa minimamente gli uccelli. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Puntuali come sempre, anche in questa puntata, il nostro gioco. Sta per arrivare il quiz. Eccolo qua, nelle analisi che la polizia scientifica deve svolgere per identificare dei colpevoli sta per essere introdotta una nuova tecnica per il rilievo delle impronte, una tecnica che promette di essere più efficace di quella esistente. Questo perché capita che le impronte siano spesso incomplete. Quale di queste tre è la nuova tecnica? 1. È un sistema che recupera un'immagine molto ingrandita ma tridimensionale dei polpastrelli e ci scriverete 3D, 3 di numero e D. Seconda possibilità, sulle nostre dita ci sono colonie di batteri che sono molto personali, diciamo così, assolutamente tipiche per ogni individuo. Ci scriverete batteri. Terza e ultima possibilità, è un software che ricostruisce le parti mancanti tenendo presente che la struttura di un'impronta non può essere di qualunque tipo ma segue delle regole e ci scriverete regole. Dove scriverete? Beh, è il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è La fine del mondo, dall'apocalisse all'ecocidio di Massimo Centini, Ananke editore. In collaborazione con ibs.it. Ciao Chiara Albicocco. Buonasera Federico e buonasera agli ascoltatori. Qui di fianco a me per affrontare uno dei temi che ogni tanto ci capita, che riguardano la scienza e la ricerca e che sono un po' controversi. Qui c'è stato insomma molto scalpore, soprattutto nella regione del Trentino Alto Adige, per una notizia che adesso tu ci riassumi un po'. Sì, ci sono state un pochino di polemiche, soprattutto da parte degli animalisti. Infatti si tratta di una ricerca scientifica, lo diciamo, sulla pericolosità delle valanghe con sperimentazione animale. Ora entreremo nel merito di tutto. Sì. Si è svolta vicino a Bolzano qualche settimana fa e poi è stata interrotta. Ecco, lo spieghiamo perché nei giorni di ricerca sono stati portati in uno spazio idoneo all'esperimento circa 29 suini, 29 maiali, e venivano indotte praticamente artificialmente con delle cariche alcune valanghe e si testava, diciamo, la sopravvivenza o comunque i livelli vitali sugli animali. Perché gli animali erano investiti dalla neve, ecco, e quindi restavano sotto. La sì. quest- questione è molto delicata, la ricerca è scientifica, ha ricevuto diciamo tutti i permessi crediti, diciamo, del caso, esatto. Infatti purtroppo insomma la ricerca è stata interrotta anche in maniera violenta da delle polemiche degli animalisti, però diciamo i ricercatori sono stati assolti appunto perché avevano tutti i permessi. Però ci deve spiegare un pochino meglio la situazione, soprattutto l'importanza forse di queste sperimentazioni, il direttore dell'Istituto per la Medicina di Emergenza in Montagna e il coordinatore di questo studio dell'EURAC di Bolzano. È con noi il professor Hermann Brügger. Buonasera. Buonasera. Allora, ci racconti un po', cioè questo esperimento che avete fatto in altro modo non si può fare, insomma gli stessi dati non si possono avere in altro modo. Sì, esatto, tutto quello che lei ha detto adesso è esatto e riflette quasi tutto quello che è successo. Mm-hmm. Questo studio sperimentale sarebbe stato molto importante per la sopravvivenza di alcune vittime da valanga e lo posso spiegare in poche parole. Sì. Cioè la causa di morte in una vittima da valanga in gran parte è dovuta all'asfissia, cioè al soffocamento. Mm. Però sappiamo da alcuni studi precedenti che circa il 15% non soffoca soffoca sotto la valanga, però riesce a respirare e va in ipotermia. Ah, cioè ha un forte abbassamento della respirazione, ma però qualcosa resta, è questo che lei sta... E in quel caso l'individuo potrebbe sopravvivere? Potrebbe sopravvivere. Mm. Quello che noi non sappiamo è quale fattore è più responsabile per la morte di una vittima da valanga, che sia l'ipotermia o l'asfissia, che è il soffocamento acuto. Ho capito. Su questo non abbiamo dati. E questo è importantissimo però per la prognosi. Se noi riuscissimo a sapere quali fattori sono responsabili per la sopravvivenza, possiamo anche fare una decisione sulla valanga, quali delle vittime da valanga si possono rianimare e anche riscaldare tramite una circolazione extracorporea. Questo è un trattamento molto complicato e molto costoso, va fatto in poche cliniche e centri ospedalieri in Italia, anche in Italia e in Austria. Se riuscissimo a sapere quali di queste vittime che vengono trovate senza segni di vita hanno una chance, una possibilità di rianimazione con successo, allora potremmo mandare queste vittime a questi centri di rianimazione e riscaldamento. E così potrebbero sopravvivere queste persone. Sappiamo da alcuni casi che sono stati constatati morti dove abbiamo il sospetto che invece in quei casi la vittima da valanga non era proprio irreversibilmente morta per asfissia, ma probabilmente da ipotermia. Quindi una differenza impressionante. Un tentativo. Non capito. Perché sono stati usati proprio i suini? Perché hanno una fisiologia e anche un'anatomia simile a quella umana? Sì, tutte le sperimentazioni sull'ipotermia è stata fatta con maiali finora, perché il maiale sia dal sistema cardiocircolatorio sia anche dal sistema e della regolazione termica assomiglia molto all'essere umano, e per indagare sull'ipotermia dobbiamo fare una sperimentazione con animali, perché è assolutamente proibito fare sperimentazioni su umani regolamento internazionale di Helsinki che risale agli anni 60. Certo. Dunque è per questo che avevate tutte diciamo le carte in regola. Naturalmente, è stato tutto regolare e abbiamo avuto tutti i permessi da parte del Ministero delle Scienze e della Ricerca in Austria. Devo dire che la sperimentazione non è stata fatta qua in Italia, ma in Austria, perché solo all'Università di Innsbruck abbiamo tutta la logistica e anche la sala operativa per preparare gli animali e per iniziare l'anestesia generale. Tutti erano in anestesia generale. Erano sedati. Sì. E erano sedati, non solo sedati, ma erano veramente anestetizzati, così che gli animali stessi non hanno mai avuto qualche dolore o sofferenza. Ma voi poi, al termine di questo esperimento, insomma, nel momento in cui, diciamo, si è messo in moto questo salvataggio simulato, insomma, avete poi effettivamente recuperato degli animali, cioè avete verificato? Questo non è possibile, perché con un animale che è stato anestetizzato non si può poi andare avanti con un riscaldamento e una rianimazione sul posto. Questo sarebbe impossibile. Impossibile. Che dire, in fondo probabilmente forse vi aspettavate un po' di queste proteste. È vero che, insomma, la cosa fa effetto. Devo anche dire, Chiara, non so, che sì, purtroppo questi animali maiali noi, insomma, in tutti i modi non li trattiamo, non certo li trattiamo bene, bene. Qui no. Sono finiti sotto valanghe, ma certo, per dirle, sì, in breve, ce li non mangiamo, avrebbero in avuto tutti un i modi, destino insomma, molto migliore, così, Bruegger, no? Bisogna però tenere presente che l'importanza di un'indagine di questo genere bisogna sempre essere valutato in relazione anche alla sofferenza di un essere, di un animale, naturalmente. Sì. Però per salvare delle vite umane, secondo me, anche vale la pena fare delle sperimentazioni, perché non c'è via d'uscita, non abbiamo nessuna alternativa per fare questa indagine. E la risposta a queste domande la risposta ci occorre per fare decisioni poi efficaci della valanga. Bisogna un po' fare un bilancio tra costi e benefici. Dunque, costo e benefici anche dal punto di vista etico. Certo. Anche costo-beneficio, questo è vero, perché i riscaldamenti sono molto costosi, però questo è un fattore che a noi non interessa molto, piuttosto è un fattore umano, cioè di garantire che nessuno viene constatato morto su un posto di una valanga, su una valanga dove si avrebbe ancora una possibilità di rianimazione con successo. Bruegger, l'esperimento si è interrotto, mi sembra, al secondo giorno. Ora che, insomma, siete stati assolti, cosa succede? Cioè, ci sarà una seconda tranche? Ma questo bisogna, adesso subito non facciamo più niente, perché bisogna dire che abbiamo perso il coraggio, perché erano molto aggressivi gli animalisti, sì, e ci hanno anche... Avete ricevuto delle minacce? Minacciato la morte, c'era una minaccia di una bomba, hanno chiuso la valle per un certo periodo, c'era la polizia per due giorni, siamo stati sotto sorveglianza della polizia, cioè è stata una cosa piuttosto... violenta. Pesante e violenta, perciò al momento non facciamo niente. Però per rispettare anche la libertà della scienza e per non dimenticare che sono esseri umani che possono essere salvati, allora pensiamo bene di trovare qualche modo per continuare. Va bene, allora ci sentiamo più avanti, Bruegger. Grazie, buon lavoro. A lei. Bene, Chiara, con una notizia che riguarda sempre animali, ma un po' più serena e tranquillo, orangutan. Molto più ottimistica. Sì, orangutan. Immergiamoci nelle foreste del Borneo. E beh, che cosa stia dicendo questo orangutan o che cosa voglia trasmettere, noi con certezza non lo sapremo mai. Noi umani, però. I suoi conspecifici e soprattutto le sue conspecifiche dovrebbero comprenderlo molto bene. Non solo questi versi servono per attirare le femmine del gruppo, ma è stato recentemente scoperto che queste vocalizzazioni forniscono anche precise indicazioni su chi le emette. E se ad emetterle è il maschio dominante, la questione si fa davvero interessante. È stata effettuata un'attenta analisi acustica da un team di ricercatori di Zurigo e le conclusioni a cui sono giunti sono proprio che i richiami degli oranghi del Borneo, che per la precisione si chiamano scientificamente Pongo pygmaeus, hanno duplici significati. Sono una serie di suoni, tonanti a impulso, oppure grugniti, udibili anche a grandi distanze e tra la fitta vegetazione. e possono essere o provocazioni rivolte ai maschi, soprattutto rivali, se sono emissioni lunghe e minacciose. Oppure versi di eccitazione, più brevi e rapidi, rivolti alle femmine. E queste dal canto loro riconoscono il richiamo. All'altro, quello rivolto ai maschi, non degnano attenzione. Ma non solo, sanno precisamente qual è il maschio che li emette e decidono di conseguenza se rispondere con atteggiamenti compiaciuti. È ovvio che se sono già impegnate o hanno già procreato fanno finta di non sentire e non si sentiranno chiamate in causa. Ma quelle che sono in estro o sessualmente attive, ecco che questi richiami diventano davvero fondamentali. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La risposta del quiz, eccola qua. Vi ricordate quali nuove tecniche stanno arrivando nelle indagini poliziesche per rintracciare meglio, per verificare meglio la presenza di impronte? Allora, non ci sono nuove immagini a tre dimensioni dei polpastrelli, non c'è nemmeno un software che ricostruisca le parti mancanti. La risposta giusta era la seconda, e cioè sulle nostre dita ci sono delle colonie di batteri. Ormai lo sappiamo, nel nostro corpo, dentro, fuori, vivono miliardi di batteri. Ebbene, ci sono anche sulle dita e sono appunto delle colonie. Questi batteri, insomma, non sono gente che se ne va e poi ne arrivano degli altri di altro tipo, sono abitanti permanenti, affezionati e anche tipici. Sapete come hanno fatto? Hanno fatto un esperimento con tantissime persone con le loro tastiere di computer. Ovviamente sui tasti rimanevano le tracce di questi batteri, di queste colonie molto personali, e hanno trovato una tremenda, insomma, continuità, corrispondenza tra umani e batteri sulle loro tastiere. Questa è la risposta giusta. Si parlerà di batteri in Vedere la Scienza, lo chiederemo fra poco ad Antonella Testa, che è qui con noi, ma sei rimasta anche tu, Chiara. E... sì, mi sono fatta piccola piccola, ho ascoltato la soluzione del quiz e ora sono tornata. Non sei un batterio. No. Allora, Antonella Testa, buonasera. Buonasera agli ascoltatori e a voi tutti. Direttrice del programma di Vedere la Scienza, Festival che io prima avevo detto 11ª, 12ª, ma siamo già alla 14ª edizione. Sì, sono 14 anni. Veramente tanti. Faccio solo una puntualizzazione, che Vedere la Scienza è una bellissima rassegna cinematografica a tema scientifico, ma è all'interno di un festival, di una rassegna più grossa che la contiene. È una manifestazione che si chiama L'Avventura della Scienza, che inizia a Milano proprio lunedì, come Vedere la Scienza, lunedì 22, e terminerà la prossima settimana, fino al 28. I luoghi della manifestazione sono i più disparati, anche gli orari, quindi vi invitiamo a vedere il programma o sul nostro sito oppure su avventuradellascienza.unimi.it. È organizzato ovviamente dall'Università degli Studi di Milano. Ecco, e anche Vedere la Scienza è un festival che poi girerà come sempre in altre città italiane. Esattamente. Allora, Antonella, Chiara, da che cosa possiamo incominciare? Con cosa iniziamo, Antonella? Io inizierei con l'inaugurazione, inizierei con La pericolosa idea di Darwin, che è il film con cui apriamo, e con O come origine. Sono i due film che abbiamo scelto per creare un link tra l'anno scorso, anno dedicato a Darwin, e quest'anno, che è l'anno della biodiversità. Partiamo con Darwin. It's estimated that every hour three species are lost forever. That's 70 a day. Antonella, qui si dice che ogni tre ore perdiamo una specie sul pianeta, quindi è un documentario che collega Darwin e biodiversità. Sì, in un certo qual senso, se vogliamo forzare la mano, l'idea è che un po' Darwin è stato anche il padre dell'ecologia moderna e ci ha dato alcune indicazioni attraverso il suo pensiero su come cercare di preservare non solo le specie del pianeta, ma anche la nostra stessa specie, che tutto sommato è in pericolo tanto quanto le altre. Dico solo una cosa, gli ascoltatori hanno sentito l'inglese, ma non si preoccupino perché in sala c'è la traduzione in italiano, oppure il sottotitolo, a seconda dei vari film. Ora sentiamo un altro pezzettino, che è quello con cui iniziate e dedicato alla biodiversità. Hello, my name is Piccolina. I'm a water molecule. Now I'm cool, but if you only knew all that's happened to me, I've got to tell you. Antonella, you in see, questo documentario invece c'è una molecola di acqua dalla quale tutto inizia. La molecola d'acqua si chiama piccolina, hanno dato questo suggestivo nome a un gruppo di ricercatori che hanno realizzato questo, come tanti altri video su questo argomento, e che racconta un pochino la storia della vita dall'inizio, proprio l'inizio della formazione del pianeta Terra fino alla formazione delle prime molecole e alla nascita della vita sul nostro pianeta. Quindi un video graziosissimo, simpatico, che in pochi minuti ci racconta una storia lunga milioni di anni. Ecco, noi stiamo facendo sentire vari stralci da video. Questo era francese? Sì, la produzione francese, anche questo in lingua inglese, sarà sottotitolato. Ecco, i temi che voi toccate sono i più disparati. Abbiamo sentito Darwin, quindi l'evoluzione, la biodiversità e poi ovviamente uno sguardo anche all'ambiente, con tutto quello che è il tema, quindi l'Artico, piuttosto che le energie, l'idrogeno, eccetera, eccetera, no? Sì, perché chi già ci conosce, ma anche i nuovi frequentatori del festival, vedranno subito che il programma si articola in più parti. Accanto al tema principale della biodiversità, noi siamo soliti aggiungere dei temi per i quali prendiamo spunto un po' dall'attualità, un po' dagli interessi del nostro pubblico. E qui abbiamo voluto unire le preoccupazioni, diciamo, per il destino del pianeta anche a una sorta di ventata di positività, cioè anche dare un'idea di quelle che sono le nuove risorse che il pianeta può offrire proprio attraverso i cambiamenti climatici, risorse che alle volte poi vengono anche sfruttate, come è nel caso dell'Artico, che se da una parte apre ai ricercatori universi completamente nuovi e quindi permette di scoprire specie, risorse naturali ed energetiche, dall'altra è visto con grande attenzione e curiosità da chi è alla ricerca di qualcosa di alternativo al carbone, l'olio combustibile, eccetera, eccetera. August 12, 2005. Ellesmere Island in Canada's far north. Antonella, qui il suono è terrorizzante, i ghiacci si sciolgono. Sì, perché questa è, diciamo, la maniera più immediata di mostrare al grande pubblico che cosa accade quando un ambiente così delicato come l'Artico subisce un riscaldamento anche solo di 1-2 gradi rispetto alla temperatura media del nostro abituale pianeta. E in questo documentario si parla dell'apertura a nord del Canada, del sì, passaggio, no? Del famoso passaggio a nord-ovest, che se da una parte preoccupa gli scienziati, almeno una parte degli scienziati, cioè quelli che si interessano di cambiamenti climatici, dall'altra però apre nuove prospettive perché permette di risparmiare un bel po' di chilometri se visto come una delle possibili rotte per trasportare merci e quant'altro. Questo lungometraggio, per chi fosse interessato, si chiama L'Artico si scioglie, un ambiente in globale mutamento, ed è appunto un film canadese del 2009. E poi qui i temi si susseguono, c'è tutta una parte legata ovviamente alla storia della scienza, la storia dall'elettroshock a tutto quello che invece sono stati anche i filosofi e scienziati. Sì, quest'anno per esempio cito che avremo il film su Chandra, perché ricordo che questo è il centenario di Chandrasekhar, un personaggio che ha avuto un ruolo fondamentale per la scoperta, per alcune scoperte di astrofisica, in particolare per l'evoluzione stellare, e premio Nobel peraltro per la fisica nel 1983. Ma tra i vari possibili estratti abbiamo scelto per voi una storia dell'elettroshock davvero suggestiva, anche perché tutti gli ascoltatori già sapranno che l'inventore dell'elettroshock è un italiano, Ugo Cerletti. È una storia che è lunga 70 anni e questo film ce la racconta in maniera assolutamente mirabile. Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio, giuro, e dell'impegno che assumo, giuro di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento, di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo dalla sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale ogni mio atto professionale. Chi parlava qua, Antonella? Era una voce che raccontava quello che molti ascoltatori avranno riconosciuto, il giuramento di Ippocrate, che ogni medico deve recitare come presa di responsabilità nella propria attività medica. Se avete sentito dei rumori di sottofondo un po' inquietanti, era girato in un ospedale psichiatrico e dava un pochino l'idea dell'atmosfera che si doveva vivere a partire già dagli anni 40, quando questa pratica veniva effettuata senza l'utilizzo di anestesia, ad esempio, provocando anche danni sui pazienti. Perché questo film vuole anche portare alla riflessione su quelli che sono le questioni etiche, i problemi etici legati ad alcune pratiche mediche, come è il caso dell'elettroshock. Prima sorridevo vedendo questo riferimento alle cose che dicevi tu. Sì, perché ci sono questi temi, diciamo, importanti a livello etico, ma ci sono anche dei lungometraggi, dei cortometraggi, dei filmati molto carini, molto carini e soprattutto simpatici. Che fanno parte certamente della storia della scienza, come dire, assolutamente contemporanea. Qui vedo la famosa doppia intervista Zichichi Hack, cioè due personaggi all'opposto. Sì. E c'è un filmato, quindi c'è un video del loro incontro-scontro. Sì. Essendo entrambi scienziati, io vi chiedo subito come prima cosa appunto un numero. Che numero di piede ha? 40. 42. La sua scoperta più importante? Le caratteristiche di Epsilon Auriga. L'antimateria. Voto di laurea? 101. 110 lode. Insomma, voto di laurea, massimo. E il suo libro preferito? Il libro. Ma ce n'è tanti, libro. Come fuori dire, Ossi Zazzac. Ho letto tutto Galilei e continuo a leggere Galilei. L'ultimo letto, allora? Sì, Le rose d'Atacama. E nessuno, eccetto che Galilei. Come anticipazione non è male. Due voci inconfondibili, direi, ormai, sì, nel panorama generale. Un video graziosissimo realizzato da colleghi dell'INAF di Bologna, che appunto hanno fatto questa parallela intervista a Zichichi Hack, con un botta e risposta di domande che spaziano dal numero di scarpe al film preferito. E al libro. Zichichi legge solo Galilei. Questo per dire che vedere la scienza, insomma, è impegnativo in termini di argomenti, ma permette anche di avere dei momenti di totale svago e veramente di divertimento con video così ludici. E poi c'è tutta una parte didattica anche legata alle scuole, legata alle aziende, cioè viene portato in video quello che è la spiegazione di come funziona un'azienda chimica. Esatto. Sì, perché l'idea di vedere la scienza è quella di offrire, accanto alle grandi produzioni, grandi film, coproduzioni internazionali di alto livello, anche un panorama di quella che è la produzione fatta, realizzata da produttori indipendenti, istituti di ricerca, accademie, scuole e anche aziende, perché molte aziende comunicano il proprio contenuto tecnologico, la propria storia attraverso il video scientifico, che spesso però non viene fruito dal grande pubblico. Vedere la scienza vuole dare uno spazio anche a questo tipo di produzione. E tu, Antonella, ci hai mandato uno spezzone su quella che è la storia dei petrolchimici italiani. L'automobile è un lusso per pochissimi. Quando il vero miracolo, quello economico, finalmente arriva, ha ancora il volto della chimica. Da Marghera a Priolo, la costruzione dei grandi petrolchimici è accolta come il riscatto da miserie secolari. Sì, gli stabilimenti che li pulite, tutta a Milano li pulite. Presto l'Italia si porta all'avanguardia nella petrolchimica. Nei laboratori e poi nell'industria, lo sviluppo avviene a ritmi impressionanti. Dal petrolio si ricava benzina, ma anche vernici, fertilizzanti, detersivi, gomme e centinaia di prodotti intermedi. La petrolchimica crea o rinnova interi settori produttivi. Il risultato è un'industrializzazione rapidissima che a volte sradica letteralmente il passato. Ma in questo momento piace. Ecco, la carrellata, diciamo, del nostro assaggio di audio e video si conclude qui. Però per chi fosse interessato, insomma, può venire a Milano a vedere questa manifestazione davvero interessante, che dura una settimana, inizia lunedì 22 e terminerà domenica 28. E il programma è sui siti, sul nostro sito moebiusonline.eu oppure... E sul vostro, Antonella? È www.brera.unimi.it/festival, dove trovate non solo i titoli, la durata, le sessioni, ma anche le sinossi complete di tutti i film, quindi potete veramente programmare i vostri appuntamenti. Credo anche gratuito tutta la settimana, quindi venite quando volete. Ciao. Allora buon inizio. Grazie, grazie. Ciao, grazie a voi. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ho chiamato all'inizio di puntata i popoli dell'Adriatico a una mobilitazione. Adesso dobbiamo dare una spiegazione. Per farlo ho qui con me questa sera Sauro Pari. Buonasera Pari. Buonasera. Presidente della Fondazione Cetacea, basata a Rimini, che è una onlus e quindi una organizzazione, un ente che non ha fini di lucro, tutto quello che guadagnate lo mettete nell'impresa stessa. Allora, Sauro Pari, c'è una situazione, come dire, pericolosa dal punto di vista della sopravvivenza di questa fondazione, che svolge un ruolo fondamentale in particolare per quanto riguarda la conservazione delle tartarughe marine. Incominciamo da questo dato: ci sono tartarughe marine in Adriatico e voi le accudite. Sì, esattamente. La nostra fondazione esiste da 20 anni e una delle cose che facciamo principalmente è gestire un ospedale delle tartarughe marine, delle caretta, dell'Adriatico. Quindi tutti gli spiaggiamenti di tartarughe marine dell'Alto Adriatico, diciamo dal Po fino a San Benedetto del Tronto, le tartarughe vengono recuperate da noi, vengono curate nel nostro ospedale e poi liberate al momento in cui stanno bene. Insomma. Certo, questi sono animali stranissimi, sono degli animali tenerissimi che però fanno delle cose pazze, fanno migliaia di chilometri, si spostano nel Mediterraneo in continuazione. Nell'Adriatico non vengono però per mettere giù uova, anche perché insomma certo in tutte le attrezzature che ormai ci sono lungo le coste credo che non sia facile, però fanno un'altra cosa importante che è nutrirsi. Esattamente. L'Adriatico per la sua conformazione, per i bassi fondali, eccetera, è una nursery, la nursery più importante del Mediterraneo. Ah, ecco. E quindi è un luogo in cui la riproduzione è fortissima e il nutrimento degli animali, anche di piccole dimensioni, tartarughe anche di piccole dimensioni, è la zona prediletta, quindi diciamo che da maggio a ottobre le tartarughe risalgono l'Adriatico e stazionano qui per nutrirsi. Ecco, allora vedete, popolo dell'Adriatico, attraverso una fondazione come questa voi avete una responsabilità notevole, perché poi le caretta lì vengono a nutrirsi e vanno da altre parti a depositare le uova, probabilmente su spiagge più libere, quelle della Grecia e forse anche in alcune, almeno per il momento, della Croazia, insomma, dall'altra parte del Mediterraneo. Pari, qual è il problema? Siete a corto di fondi, oddio, sono anni, mesi tremendi, quindi non è sorprendente. Avete bisogno di sostegno? Sì, assolutamente sì, perché mentre negli scorsi anni i recuperi di tartarughe erano 10, 12, massimo 20 tartarughe all'anno, nel 2009 abbiamo soccorso e curato 94 tartarughe e solo all'inizio di quest'anno siamo ad altre 26 ospiti del nostro ospedale delle tartarughe. D'inverno non avevamo mai avuto tartarughe, quindi diciamo che è una situazione anomala, un'emergenza vera e propria, e questa ha prosciugato le nostre risorse completamente, per cui non siamo più in grado di pagare le spese mediche, certo. prelievi di sangue, eccetera, insomma. Cioè, diciamo, dal successo stesso della vostra iniziativa siete entrati in difficoltà. Cosa diciamo alla gente? C'è un sito, diamo subito l'indirizzo, sarà un www.fondazionecetacea.org. www.fondazionecetacea.org. Si entra nel sito e si hanno le indicazioni diverse per fare versamenti, per fare bonifici, esatto. Insomma, tante possibilità. Adottare una tartaruga, ad esempio, si partecipa direttamente alla sopravvivenza di questi animali, si ricevono informazioni e si viene invitati quando l'animale sarà liberato in mare, cosa che avviene durante tutta l'estate. Senta Pari, queste tartarughe, le caretta, che problemi presentano? Sono anche ferite, sono anche malmesse, per questo che le dovete curare? Ma dunque, le tipologie di danni alle tartarughe che avevamo avuto fino all'estate scorsa erano normalmente o animali che erano state prese nelle reti e quindi avevano rischiato l'annegamento, o animali feriti da ami anche per la pesca di pesce cani, o feriti da eliche o colpi delle chiglie delle barche. Mentre invece l'estate scorsa è venuta fuori una stranissima sindrome che ha colpito animali piccoli, cioè un carapace di 20-22 centimetri, e ben 77 di queste dimensioni, improvvisamente immobilizzati e pieni di parassiti e con le funzioni vitali ridotte al minimo. Questo è stato il vero grosso problema che abbiamo avuto lo scorso anno e che temiamo si ripeterà quest'anno. E che tra l'altro attraverso voi si riuscirà anche a capire che cos'è, perché mi pare che invece non sia ancora chiaro. Insomma, state intervenendo ma non è chiaro l'origine di questa patologia. Esattamente, stiamo cercando di mettere insieme un pool di lavoro e di studio con il Centro Studi Marini di Cesenatico proprio per poter andare a fondo a questa problematica. Va bene, allora mi raccomando, gran parte diciamo di questo patrimonio delicatissimo che sono le tartarughe, non sono affatto tante, è insomma come depositato nelle vostre mani. Popolo dell'Adriatico, rispondete, numerosi e consistenti. Grazie Sauro Pari e auguri per il proseguimento dell'attività. Grazie a voi. Come si fa ad osservare l'universo? Allora, si può andare, una tecnica è questa, si può andare sotto il mare e mettere delle antenne altissime. Vi sembra strano? Vabbè, allora, ascoltate Barbara Gallamotti. I telescopi con cui gli scienziati guardano l'universo ormai assomigliano pochissimo a quello usato da Galileo e a questo ci siamo ormai abituati. Il cosiddetto chilometro cubo però ha davvero un'apparenza inaspettata. Si tratta di un sistema di sensori disposti su torri altissime, posizionate nelle profondità del mare e distribuite in modo da occupare un volume che nell'ultima versione del progetto dello strumento è addirittura di 4-5 chilometri cubi. Il tutto per captare neutrini, particelle messaggere di informazioni sui grandi eventi cosmici che però sono quasi inafferrabili. L'apparato è ancora allo studio, ma un passo importante è stato compiuto al largo di Capopassero, in Sicilia, dove è stata posizionata una torre prototipo, è alta 600 metri ed è posta a 3500 metri di profondità. L'esperimento dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è il responsabile Emilio Migneco. Buonasera. Buonasera. Un esperimento che occupa un volume di diversi chilometri cubi, per giunta negli abissi marini, ma insomma a cosa serve? Beh, l'obiettivo principale, come lei ha accennato, è quello di osservare i neutrini cosmici. Sono particelle con caratteristiche uniche, possiamo definirli dei messaggeri, che non sono né deflessi né assorbiti attraversando gli spazi intergalattici e quindi trasportano... Vanno dritti, insomma. Vanno dritti e soprattutto non sono assorbiti. E quindi trasportano le informazioni dall'universo più lontano imperturbate, dall'universo più lontano dai luoghi più difficilmente accessibili come le vicinanze ai buchi neri. Si tratta quindi di aprire una nuova finestra osservativa dell'universo che consentirà dare risposte a interrogativi che finora rimasti senza risposta sui processi fisici che hanno luogo nei luoghi cosmici dove quantità di energie inimmaginabili vengono prodotte, come i resti di supernova, i lampi di raggi gamma e altri luoghi astrofisici che contengono tutta una serie di misteri che sono da scoprire. Ecco, il cosiddetto chilometro cubo, quindi l'esperimento finale di cui voi avete fatto il prototipo, sarà un progetto europeo e quello che voi avete posizionato è una sorta di prova delle sue componenti. A che punto siamo verso il progetto europeo? Diciamo, si è conclusa la fase di progettazione generale. Adesso siamo in una fase avanzata di verifica e validazione delle soluzioni tecniche che sono state individuate. E dove sarà? Sono stati candidati tre siti che hanno le caratteristiche ottimali. Un sito è quello che il gruppo italiano ha studiato a fondo negli ultimi anni ed è al largo di Capopassero, a circa 100 km al largo di Capopassero, a 3500 metri in profondità. L'altro è un sito greco, Pilos, nel Peloponneso, e un terzo al largo di Tolone, che è proposto dai francesi. La soluzione possibile è quella di dislocare questa infrastruttura di ricerca colossale, europea, su più siti, avere un'infrastruttura distribuita che presenta, fra l'altro, gli interessi non secondari circa il coinvolgimento di più paesi nel concorrere a finanziare il progetto. Quindi 4 chilometri cubi singoli, anzi 3 chilometri cubi singoli, anziché un unico blocco da 4 chilometri cubi. Sì, esattamente, una cosa del genere, sì. Ecco, questo Sarebbe interessante anche da un altro punto di vista, perché l'Unione Europea ha individuato 30 progetti di ricerca che sono considerati prioritari per mantenerci competitivi sul piano della ricerca mondiale, e due di questi sono a guida italiana. Uno è quello che riguarda il chilometro cubo, quindi quello che coordina lei, e un altro riguarda invece una rete di osservatori sottomarini che sarebbero pensati per monitorare la vita biologica e anche i fenomeni geologici. Ora, se questo progetto del chilometro cubo fosse distribuito in 3 posti anziché in un posto solo, i due progetti potrebbero essere integrati. Sicuramente i due progetti in questione, il chilometro cubo ed EMS, o come si chiama quello di interesse oceanografico, geofisico, hanno una forte sinergia. Se la soluzione del chilometro cubo è una soluzione distribuita, l'effetto sinergico è ancora maggiore, perché certamente per quanto riguarda la parte del Mediterraneo, il chilometro cubo, osservatorio di neutrini chilometro cubo, potrebbe funzionare da infrastruttura di supporto alla strumentazione di interesse per EMSO. L'altro progetto, quello non il chilometro cubo, quello di interesse biologico e geologico, sì. Mira anche l'ambizione di studiare gli tsunami. Anche sì. Sicuramente ci sono delle potenzialità circa quello che viene chiamato l'early warning, l'allerta immediato di un rischio di tsunami. Sicuramente sono tecniche che sono in corso di messa a punto, che potrebbero sicuramente rappresentare un risultato di grande interesse sotto tutti gli aspetti, ovviamente. Ma ci toglie una curiosità: come si fa a montare una torre di 600 metri sotto 3.000 metri d'acqua di mare? La torre è fatta da barre di lunghezza di 10 metri collegate da cavi flessibili, di conseguenza si può impacchettare, no, questa è la nostra proposta, si può impacchettare in un pacchetto delle dimensioni di un container, per intenderci, e così da una nave posizionata sul fondo del mare. Quindi calata e srotolata come se fosse una grande corda. Calata sul fondo del mare, c'è un segnale acustico che libera un meccanismo che fa partire una boa dal fondo del mare verso l'alto. Sotto l'azione della boa si svolge la torre, e questa la forma ottimale che abbiamo simulato nei nostri calcolatori. Grazie Emilio Migneco, buonasera. Buonasera. Abbiamo finito questa puntata. Torno alle tartarughe dell'Adriatico, mi raccomando. Oh, naturalmente non è che se non abitate su questo mare all'Adriatico non potete contribuire. C'è questa formula dell'adozione collettiva di una tartaruga che mi sembra interessante. Credo che se si forma un gruppo che mette insieme una cinquantina di euro, allora si può anche scegliere un nome. Potrebbe essere simpatico, no? Avere una conoscenza stretta con una tartaruga, anche utile quando ci sarà, per esempio, l'innalzamento delle acque marine, andremo tutti al mare. A Bologna, ecco, potrebbe essere utile avere conoscenze subacquee. Abbiamo finito, arrivederci alla prossima settimana.